che mi ha chiamato. Chi è avanti? C'è nessuno sul 10? Ora. Ora. 1, 2, 3, prova. Ora. Sono sul 10? Ora, secchio. Attento Claudio. Adesso mi dilatto, ascolta, dimmi come sta la radio, se va bene. Qua sto usando l'altro 48, non c'è la cassa esterna. Così dovresti abbassare un pelino forse. Questa è molto amplificata, aspetta. Sto usando una radio sopra, così va bene. Va bene, qua da me va bene così. Poco fa ero io che sto sistemando l'altro 48, però non sarà in trasmissione. Me ne sono accorto, ma questo è amplificato la radio, perché sto usando il microfono, ma non so se sta uscendo amplificato o meno. Sì, è amplificata. Va bene, la lasciamo così allora. Per me sì, non prendere l'occolato quello che ti sto dicendo io, perché ripeto, sto usando la cassa interna del 48. Mentre prima stavo usando la cassa esterna seria, tra virgolette. E adesso va bene, poi se senti a Claudio qualcun altro, vedi un po' cosa ti dicono. Vabbè, sarà giusto per vedere se stavo uscendo, perché non è una radio mia, quindi... Ora se cambia qualche cosa facendo così, se ha cambiato qualche cosa o meno. Sembra un pochino più forte, ho la mia impressione. Non lo so, guarda, adesso riporto il corso da zero, eccolo qua, così a zero. È cambiato? Mi sembra appena meno amplificata, mi dà quell'impressione. Può essere, non lo so. Va bene. Guarda ancora, aspetta, eccolo qua, ora c'è cambiato. Sembra più chiara, più amplificata, Più turi, va bene. È bella radio, vecchia, ma è bella radio. No, è buona, bella, limpida, chiara, pulita. già va bene, ti. Va bene, ah, aspetta un attimo, eccolo qua. Una persona che ce l'ha, come si utilizza questo, va bene, comunque fa tutto bene. Cavalcava e cavalcava, la via è sempre buona, è di radio, T. Sì, e stai arrivando qua a questo Twitter, stai arrivando 9.5, quindi questo è un pochino più serio dell'altra che ho avuto io. Quattro watt sono qua, i watt suoi. Cos'è? Che è avanti? Ciao, buonasera. Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano. Tu che ne hai avuta questa radio qua? Luis, ti ricordi? Allora, c'è il calibratore. Calibrato, con il breccio, con cacchio che si chiama. Fondoscala vuole lui. Cos'è? Il fondoscala vuole il calibration. Non lo ricordo, ti lo sai. Non c'è la freccetta del clarifier. Oh, un'altra cosa. Vabbè dai, poi da verrà più un altro a darmi dei consigli che ce l'ha a casa sua. Come le parla di Massimiliano? Con il G4 sono utilizzato. È buona, buona. Amplificata, va bene? Sì, benissimo, benissimo, va bene. Tranquillo. Prega, passa per il micchino qua. E questo invece com'è? Io sto usando la car radio qua, Guarda, io sto ascoltando con questa, è bella amplificata, comprensibile, bella presente, forte. Voglio provare però un altro microfono, ciao Dani, anche a te. Voglio provare un altro microfono se è migliore. Dai, io sono in stand by, sto saldando qua, sentiamo dopo. Ehi, dai, tanto anche io, 5 minuti poi devo uscire pure a mettere un po' di legna, perché sennò se va per la fa. Guarda, questo dice meglio. Guarda, questo è un pochino più nasina. Più nasina, quello lì invece è più corposa, giusto? Sì, infatti io la preferisco, l'altra. Sì, ma me ne accorgo anche io, va. Se al parlo ascolto, me la accorgo, aspetta. Ok, va, sì, no, no, va, me ne accorgo che spinge anche di più con questo. Dopo le provo perché devo andare a farmi la doccia e non vedo l'ora di entrare in doccia. Dai, ci sentiamo dopo, attività la fine. Poi non lo so, dai, se c'è qualcuno sì, se no lo spacco tutto. Va bene, a dopo, ciao. D'accordo, ciao. Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, chi l'ascolto, ciao Daniele, Tino e chi fosse l'ascolto, sta con tutto, ciao. Ora. sì, tu non stai uscendo, eh. Adesso va bene. che radio stai utilizzando, Fra? Quale radio? Sì, tu, che radio stai usando? Che 80. Vabbè, questo è... cambia un po' la situazione, l'ascolto lo cambia un po'. Ma sto usando la 80 e me l'ho tolto da qua, l'ho messo sopra, che non ci stava più un cavolo. Scappa, no, vabbè, io un po' ma questa la posso andare più che altro, perché era sempre ferma e allora passiamo, facciamo girare. Aspetta, una cosa, può andare in USB a 6, ma non credo che esca, non lo so, prova un attimo fra. Ok, vai, USB. Un micro, si è arrabbiato, tu. Cambiato la modulazione, sapevo la c'è solo il staccato. Niente, comunque ho chiesto, ma no, devi solo girare e commutare, se non vuoi vuol dire che c'è da controllare qualche cosetta, dai. Adesso stasera la lascio accesa, vediamo se si riprende un pochino, perché era un po' di tempo ferma, quindi. Sì, ma che cavolo è questo rumore? Lo sento anch'io, questo deve essere lo sento nel mio radio, aspetta. Allora, in questa lo ascolto ma non lo ascolto, eh. Diciamo che l'ascolto poco e niente perché è più sorda. Ma sono 20. 20? Ok.